falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Diventare famoso dopo la morte è qualcosa che può capitare, ahimè, a un artista. Ma oggi noi raccontiamo una storia particolare, perché questo artista, anzi questo regista, diventa famoso dopo la morte, ma in un'altra maniera, perché viene definito da numerosi critici il peggior regista di tutti i tempi. È vero, tanto che lo stesso Tim Burton ha deciso di fare un film sulla sua vita. Stiamo parlando del regista americano Ed Wood, un regista di film di fantascienza, horror, western, tutti legati da un solo filo rosso: il basso budget. La pellicola di Tim Burton, che è del 94, vince 2 Oscar. Prende spunto da un libro biografico sul regista scritto da Rudolph Gray, che giustamente comincia nel lontano 10 ottobre 1924. Siamo a Poughkeepsie e nasce Edward Davis Wood Jr. Suo padre Edward Senior lavora per il servizio postale e così con la famiglia si trasferisce più volte in giro per gli Stati Uniti. Alla fine si stabilisce a Poughkeepsie, vicino a New York, dove con Lillian, sua moglie, avrà Edward Jr. L'infanzia di Edward è un po' particolare, perché sua madre vuole tanto una bambina, ma così tanto che quando nasce non si arrende, inizia a vestirlo con dei vestiti rosa e femminili, e questo è un comportamento che lo condiziona per sempre, così per il resto della sua vita. Sarà un crossdresser eterosessuale, cioè una persona che ama vestirsi da donna pur amando le donne. Il piccolo Ed trascorre una sua infanzia durante gli anni 30, si interessa di cinema, di teatro. All'età di 7 anni vede per la prima volta lo spettacolo Dracula con Bela Lugosi, che è il nome d'arte di Belan Ferenc Dezko Blasco, che è un attore cinematografico ungherese rimasto celebre per le sue interpretazioni nei film horror, in particolare proprio di Dracula. You are too late. My blood now flows through her veins. She will live through the centuries to come as I have lived. E così Ed vive sognando a occhi aperti il suo idolo Bela Lugosi, lo ammira talmente tanto che a volte salta la scuola per intrufolarsi nel cinema locale, dove recupera fotogrammi delle pellicole che il personale butta nella spazzatura, e lui recupera tutto, salva parti di pellicola e la aggiunge alla sua collezione personale. Intanto raccoglie per anni fumetti, riviste pulp, ama tutti i film, in particolare i western, e legge anche periodici e riviste che riguardano il mondo dell'occulto. Il giorno del suo 12° compleanno, 1936, Ed riceve in dono la sua prima cinepresa, una Kodak Cine Special. Inizia a usarla subito ed è un bambino felice, e rimarrà orgoglioso per aver ripreso il dirigibile Hindenburg passare sopra il fiume Hudson e proprio a casa sua, poco prima del suo tragico incidente nel maggio 1937. Il dirigibile era un vanto dell'aeronautica tedesca di quel periodo, è stato uno dei velivoli più grandi mai costruiti. Stiamo parlando di 245 metri di lunghezza, di 200.000 metri cubi di volume, come una nave transatlantica della grandezza del Titanic. E quel 6 maggio del 37 prese fuoco con 97 persone a bordo. Le lancette dell'orologio segnavano le 19.25, stava compiendo la manovra di attracco presso la stazione aeronavale di Lakehurst nel New Jersey, però scoppiò un incendio le cui cause rimangono poco chiare. Ecco l'audio originale dei giornalisti che erano sul posto, aspettavano l'attracco e invece successe ben altro. It's practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship and it's been taken a hold up down on the field by a number of men. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it. It burst into flames. Wait, wait, get it. Una delle prime scene, diciamo, di morte in diretta, perché di persone ne moriranno 35 su 97, il bilancio poteva essere anche più grave. Henceforth pledge ourselves unto the power of the upper air. Ed cresce, non abbandona la passione per il cinema, anzi uno dei suoi primi lavori è come usciere in una sala cinematografica, però nel tempo libero canta, suona la batteria in una band, impara a suonare anche altri strumenti a corda, dà vita a un quartetto di canto chiamato Eddie Wood's Little Splinter, le piccole schegge di Eddie Wood, schegge impazzite direi, e nel 42 si arruola nel corpo dei Marine e pochi mesi dopo l'attacco a Pearl Harbor raggiunge il grado di caporale, viene coinvolto nella battaglia di Tarawa durante la guerra e ferito a una gamba. Eppure la paura di Ed non è quella di essere ucciso, ma quella di essere ferito, perché sotto quella divisa verde indossava un reggiseno e un paio di mutandine femminili, quindi spesso capita, insomma, che dietro a un vestito se ne cieli un altro ben diverso, e le sorprese non mancano nella vita. Tutto cambia, c'è una svolta nel 1947 quando Ed si trasferisce a Hollywood in California e qui naturalmente l'appetito viene mangiando, lui inizia a scrivere sceneggiature, puntate pilota di trasmissioni TV, spot pubblicitari, western, però tutto sempre con budget talmente minimi che nessuno ricorda neanche di averli visti. Parliamo di titoli come Crossroad Avenger, The Legend of Tucson Kid, Streets of Laredo. Nel 48 Ed Wood scrive, produce, dirige, addirittura interpreta Casual Company, che è un film tratto dal suo romanzo inedito incentrato sulle sue esperienze di servizio nel corpo dei Marine. Siamo con Ed Wood, che sta andando avanti imperterrito a produrre film a basso budget. A 28 anni nel 52 finalmente conosce il mito della sua infanzia, l'attore Bela Lugosi. Lo conosce attraverso il suo compagno di stanza, che era uno scrittore e produttore di nome Alex Gordon. Dunque, Bela Lugosi è un attore ungherese che vive negli Stati Uniti, che per anni ha interpretato il Conte Dracula nei teatri di Broadway, è diventato famoso a livello internazionale quando la Universal Picture ha deciso di produrre un film con lui, Dracula. Il successo è stato così insperato che Bela Lugosi è entrato nella storia del cinema, è ricordato da tutti gli amanti del genere horror per la sua suggestiva interpretazione, per la sua eleganza, il suo sguardo ipnotico. Ecco le sue parole nel 51 quando rientra negli Stati Uniti dopo aver girato in Gran Bretagna il film Vampire Over London. Quel giorno un giornalista gli chiede se il mito di Dracula sia destinato a morire. No. Dracula non finisce mai. Non so se chiamarla fortuna o maledizione, ma non finisce mai. Non so se dovrei lamentarmi di questo, ma Dracula è l'unico film esistente al mondo che, a quanto pare, sin da quando uscì nel 1931, viene proiettato ogni anno in ogni città d'America. Dopo la metà degli anni 40 però i ruoli iniziano a diradarsi, perché Lugosi è uno di quegli attori, diciamo, un caratterista, e nel frattempo questo suo declino si abbina a un suo amore per la morfina. All'inizio aveva assunto morfina per tenere sotto controllo la sciatica, Dopodiché, insomma, alla morfina ci si abitua ed è difficile tornare indietro. Tell me, Sister Murphy, when are you coming round again? Oh, and I don't think I can wait that long. Oh, you see that I'm not that strong. Ed Wood e Bela Lugosi diventano amici, iniziano a lavorare insieme proprio in quel periodo, perché per lui Bela Lugosi è tutt'altro che un attore in declino. Il figlio di Lugosi, Bela Lugosi Junior, è uno di quelli che nel tempo ha sostenuto che Ed Wood abbia sfruttato la celebrità di suo padre e la sua delicata situazione per costringerlo a partecipare ai suoi film, ma molti invece testimonieranno che tra Ed e Bela c'era una profonda amicizia, che Wood abbia aiutato molto Lugosi durante quel periodo di depressione e di tossicodipendenza, perché di quello ormai si trattava. Possiamo dire che, insomma, si stringe un rapporto molto stretto, e per Eddie inizia un periodo fortunato, visto che alla fine del 52 entra nella sua vita anche una donna e lui sta cercando nuove attrici da coinvolgere nei suoi progetti, e poi vede lei, che è bionda, bellissima, si chiama Dolores Faller, vivrà assieme a lui qualche anno. I loved that man. He was so talented. Io amavo quell'uomo. Era così talentuoso, e se solo fosse ancora vivo oggi per vedere cosa sta succedendo. Così tanti giovani autori, aspiranti produttori, che si identificano in lui e dicono: se ce l'ha fatta lui, posso farcela anch'io. Lo incontrai quando stava cercando qualcuno da istruire, e io avevo due posti fissi in televisione. Ero al Queen for a Day e al The Dinah Shore Show. Penso che quel giorno fece il colloquio a molte giovani attrici, ma io indossavo un maglione d'angora. E lui amava l'angora. E io avevo un paio di lavori e una macchina. Insomma, ci innamorammo e allo stesso tempo diventammo un team lavorando assieme. We fell in love and we became actually a team. We worked together as a team. Eh sì, un team che porta al primo vero lungometraggio di Ed Wood, il semi-autobiografico Glenn or Glenda. Attenzione, il tema di fondo è il travestitismo, perché certe cose poi riaffiorano. Il film, a cui partecipano Dolores e Bela Lugosi, è liberamente ispirato a un caso di cronaca di quei tempi legato alla vita di una donna trans, Christine Jorgensen, nata come George Jorgensen. Lei è una delle prime persone al mondo a essersi sottoposte al cambio di sesso, nel suo caso specifico da uomo a donna. E il film viene naturalmente stroncato dai critici di allora, ma anche da quelli di oggi. Viene considerato uno dei peggiori film del peggior regista. In realtà è un film importante perché invita alla tolleranza e soprattutto tocca un tema assolutamente tabù all'epoca. Beh, intanto non dimentichiamo che lui è un amante del travestitismo, con un certo feticismo per i golfini di angora, i golfini da donna naturalmente. Sembra che la sua fidanzata Dolores Faller lo abbia scoperto solo dopo la proiezione del film. The removal of the man and the formation of the woman. A woman born at the age of 24. A new life is begun. The body of the woman within begins to appear now. Ed Wood dirige Dolores non solo in Glen or Glenda del 53, ma anche in Jailbait del 1954. Intanto Dolores, che non è solo un'attrice ma anche una cantautrice, che scriverà diverse canzoni di musica leggera mettendo a segno due colpi, cioè due classici cantati da Elvis Presley, Do the Clam e Rockahula Baby. Siamo agli inizi del 1960 e questa canzone è un mix tra folk hawaiano e rock and roll, e viene inserita nel film Blue Hawaii con il mitico Elvis, e probabilmente contribuisce a tenere a mettere in salvo il bilancio familiare. palco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Ed Wood, di un regista assolutamente particolare, e i critici, gli studiosi lo hanno definito un uomo ispirato ma totalmente privo di talento. Lui ha una grande passione per il cinema, però non ha mai budget e non riesce mai a convincere qualche produttore a finanziargli un film come si deve. Così si accontenta di mezzi di fortuna pur di concludere i suoi film, quindi con cast sottopagati, scenografie di cartapesta, sceneggiature surreali. Eppure, se c'è chi lo ha definito il peggior regista di tutti i tempi, c'è anche chi lo considera un uomo coraggioso, capace di affrontare temi delicati come quelli legati al transgender. Abbiamo lasciato Wood a Hollywood, dove ha incontrato il suo mito, l'attore di Dracula, Bela Lugosi. Ha avuto una storia d'amore con la bella Dolores Faller. Però la storia finisce perché Ed inizia a bere troppo e poi si innamora di un'altra attrice che sposa in fretta e furia durante la lavorazione del film horror La sposa del mostro, girato nel 55, dove compare lo spettro di Bela Lugosi, che ormai è un tossicodipendente. Lei, la nuova donna di Ed Wood, si chiama Norma McCarthy. Intanto il sodalizio Wood-Lugosi prosegue, compare in Plane 9 from Outer Space del 1959, forse il lavoro più celebre di Ed Wood. Questo è uno stralcio del trailer originale. They come from the bowels of hell, a transformed race of walking dead, zombies guided by a master plan for complete domination of the earth. Plan 9 from outer space. Starring the most nightmarish cast ever. Bela Lugosi, the seductive vampira, and poor Johnson as the walking dead. Anche il trailer è abbastanza disastroso, non voglio pensare al film. Film che viene, come sempre, prodotto, scritto e diretto da Ed Wood, che diventerà l'ultimo film interpretato dal povero Bela Lugosi, che muore durante le riprese. A questo punto il suo personaggio viene interpretato in altre scene da una controfigura decisamente originale, Tom Mason, che era il chiropratico della moglie del regista. Tra l'altro i due non si assomigliavano per niente, con altezze molto diverse, con Mason calvo e Lugosi pieno di capelli, ma Wood va avanti a girare imperterrito e viene aiutato anche da un incontro casuale, quello con Orson Welles, incontro che viene raccontato nel film di Tim Burton dedicato appunto a Ed Wood. Mi scusi, signore. Sì? Sono un giovane cineasta, suo grande ammiratore. Volevo solo conoscerla. Molto piacere, Orson Welles. Piacere. Edward D. Wood Jr. Sta lavorando. Il finanziamento per Don Quixote è fallito per la terza volta. Accidenti, non posso crederci. Sembra afflitto dagli stessi miei problemi. Si tengono la borsa stretta, non sai mai se finanziano a parole o se hanno i soldi. E credono di essere tutti registi. Sacrosanta verità. Lo sa che a me i produttori hanno rivoluzionato il film? È una cosa che non sopporto. E mi impongono i loro amici come protagonisti, senza chiedersi se siano giusti per la parte. Ah, non me ne parli. Presto dovrò girare un giallo per la Universal. Ma vogliono che Charlton Heston impersoni un messicano. Signor Wells, conviene davvero? Sì, quando funziona sì. Lo sa su quale dei miei film ho avuto il controllo totale? Quarto potere. La produzione lo avrebbe bruciato, ma nessuno è riuscito a toccare neanche un fotogramma. Ed. Sì. Per difendere l'immaginativa bisogna combattere. Perché spendere una vita a realizzare i sogni di qualcun altro? Tenerezza, cioè fa tenerezza al fatto di Ed Wood che crede per un attimo di solidarizzare con Orson Welles, ergendosi anche lui a persona con i problemi del grande regista. E intanto Plane 9, che è considerato il film più famoso di Ed Wood, viene completamente ignorato dalla critica fino al 1978, l'anno della morte di Wood, quando i critici Harry Medved e Randy Dreyfus, incuranti del fatto che Wood era appena morto, lo definiscono il peggior film di tutti i tempi e definiscono Wood il peggior regista della storia del cinema. Sentiamo cosa ne pensa uno dei massimi critici cinematografici italiani, Paolo Mereghetti. tutti sono convinti che sia il peggior regista della storia del cinema. Secondo me non è vero. Il suo talento era quello di riuscire a fare dei film a bassissimo costo, dove dava forma a delle idee abbastanza personali, per non dire stravaganti. Certo, rispetto a un'idea codificata che abbiamo di cinema tradizionale, hollywoodiano, ben costruito, il talento gli manca completamente, non è quello che gli interessa, ma forse appunto non voleva neanche cercarlo. Gli effetti speciali sono ridicoli anche per l'epoca, e nella pellicola sono osservabili, non so, i fili che sorreggono i modellini dell'astronave, gli attori recitano davanti a uno sfondo finto, proiettando le loro ombre. Andiamo a vedere di chi è la tomba. Perché devo sempre avere a che fare con le cose macabre io? Mostri, cadaveri, tombe. Vai col disco volante. Stop, stampiamola. Andiamo avanti. Era perfetta. Perfetta? Signor Wood, si rende conto di quanta arte serva per fare un film? Mi piace pensare di sì. La lastra tombale di cartone è caduta. Questo cimitero è manifestamente finto. Mai nessuno al mondo se ne accorgerà. Il cinema non è fondato su piccoli dettagli, è la magia dell'insieme. La magia dell'insieme? Già. È magico anche il fatto che i poliziotti sono arrivati in pieno giorno e all'improvviso è notte. Ma che ne sa lei, ha mai sentito parlare di sospensione dell'incredulità? Reverendo, eccomi qui. Questo chi è? È il direttore del nostro coro e sarà il suo protagonista. Vi ha dato di volta il cervello? Sono io il regista! Scelgo io gli attori, mi sono spiegato? Io credevo che dovessimo collaborare. No! No! Mi stanno facendo impazzire! Altro momento di tenerezza, anche se forse qualche soap opera degli ultimi tempi a livello di, come dire, qualità ha preso un pochino da Ed Wood. Comunque il film è talmente brutto che diventa un oggetto di culto. Fatica a spiegarselo lo stesso Merghetti. Perché quel film sia diventato di culto, non so, Martin Scorsese sa citare a memoria i dialoghi di quel film, è talmente brutto che poi a questo punto viene anche da ridere. Cioè, sono talmente evidenti i trucchi, se per così si possono chiamare, questi dischi volanti fatti di cartone coi piatti dove si vedono i figli e tutte queste cose, che poi alla fine di fronte a un film di questo genere o lo rifiuti completamente oppure ti viene da dire ma sì, vabbè, prendiamo la sorriso. Tra l'altro la cosa più curiosa è l'idea del film, il fatto che gli alieni vogliono invadere la Terra perché sono preoccupati dalla corsa agli armamenti. Questa è già un'idea abbastanza insolita e curiosa. Eh beh, perché la corsa agli armamenti può spaventare gli alieni. Comunque Ed offre una parte anche alla sua neosposa Norma McCartney, che compare sullo schermo come hostess, e il matrimonio verrà annullato perché la prima notte di nozze, normalmente, insomma, i perizomi, i vestitini intimi carini li dovrebbe mettere la moglie. Invece lei scopre il marito vestito come si dovrebbero vestire le mogli nelle prime notti di nozze, e quindi il matrimonio non viene consumato. Rouge and coloring, incense and ice, perfume and kisses, ooh, it's all so nice. You're a slick little girl, you're such a slick little girl. Now we're coming out of our closets, out on the streets. Coming out. Quindi insomma il nostro Ed Wood è un personaggio veramente particolare, che però è amato da molti registi. Tra i suoi fan abbiamo sentito prima, oltre a Scorsese, c'è anche Tim Burton. Edward Mani di Forbice si chiama Edward in onore di Edward Wood. Con la sua pellicola biopic vincerà ben due Oscar, miglior attore non protagonista e miglior trucco. Il protagonista viene interpretato da un grande Johnny Depp. He was not the world's worst director. Wood non era il regista peggiore del mondo. Penso che fosse uno che invece si sforzava di dare forma a una visione artistica che aveva. Penso che fu un importante regista in quel senso, perché non avremmo avuto John Waters, Tim Burton o David Lynch senza un ribelle come Ed Wood. Insomma, io sono con quelli che vogliono dare una bella pulita a quell'immagine sporca che gli è stata data. Eh sì, il giovanissimo Johnny Depp si è trovato a interpretare un personaggio molto particolare e, diciamo, anche molto sfortunato. L'idea del personaggio sfavorito, sconfitto, mi ha sempre affascinato. Credo di essere cresciuto con quel sentimento universale che ti fa sentire un ultimo, uno che non si è mai veramente sentito a suo agio da nessuna parte. Il film di Tim Burton invece viene molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico. C'è solo una persona che è rimasta contrariata, che è Dolores Fuller, la prima fidanzata di Ed Wood, che nel film viene interpretata da Sarah Jessica Parker. L'attrice, compagna di Ed Wood, è scomparsa nel 2011, quando è uscito il film non ha risparmiato critiche alla star di Sex and the City. That was the only thing I didn't like about the Ed Wood movie. Quella fu l'unica cosa che non mi piacque del film di Ed Wood. Sarah Jessica Parker fuma tutto il tempo e io non ho mai fumato in vita mia. E poi lei non mi contattò mai. Eccola lì a mettere in scena la mia vita senza darsi mai la pena di fare un minimo di ricerca. E quando al David Letterman Show David le chiese: ma come sta Dolores? È ancora viva? Che fine ha fatto? Lei girò la testa dall'altra parte perché non voleva darmi alcuno spazio televisivo e rispose: ora me ne vado a casa a farmi un bel cocktail. Beh, sai, un gran brutto carattere. Henry. Beh, il mondo del cinema americano deve essere piuttosto spietato. Comunque, Ed Wood sposerà la sua seconda moglie nel 1956, si chiama Kathy O'Hara. Rimarranno assieme fino alla morte del regista, 1978. Wood aveva confessato a sua moglie che mamma lo vestiva sempre come una bambina e che quel suo amore per i travestimenti, per la soffice angora, non era una inclinazione sessuale, ma piuttosto un antico legame con la madre. Questo aspetto in realtà è un po' più complesso, perché negli ultimi anni Ed Wood non si è vergognato di uscire in pubblico per le strade vestito come il suo alter ego Shirley, apparsa anche in alcune sue sceneggiature. Ha vissuto anni in pieno declino, come ci racconta sempre Paolo Mereghetti. Che il suo cinema comunque non conquistasse nessuno, perché poi la fama di Ed Wood è stata postuma, lo dimostra il fatto che poi alla fine è finito malissimamente. L'ultimo suo film era un film porno, ha campato scrivendo romanzi pornografici in maniera abbastanza stentata. Insomma, le cose non vanno per niente bene, la fama non la raggiungerà mai lui nella vita. Nel 78 la sua depressione peggiora e anche i problemi con l'alcol. Lui e sua moglie vengono sfrattati dal loro appartamento di Hollywood in Yucca Street il 7 dicembre 1978, così si trasferiscono nell'appartamento del loro amico e scrittore Peter Coe. Ed trascorre il fine settimana a bere vodka. Intorno a mezzogiorno di domenica 10 dicembre si sente male, si va a sdraiare sul letto. Dopo pochi minuti chiede da bere alla moglie, che stanca della situazione non gli risponde neanche, e avrebbe fatto meglio andare a vedere cosa succedeva, perché 20 minuti dopo, quando chiede a un amico di andare a dare una controllata, Ed Wood è sdraiato sul letto ed è morto per attacco cardiaco a soli 54 anni. Mi ricordo ancora quando sono andata in quella stanza quel pomeriggio e lui era morto, gli occhi e la bocca spalancati. Non dimenticherò mai il suo sguardo. Afferrava le lenzuola e sembrava avesse visto l'inferno. Ed Wood è stato cremato, le sue ceneri sono state disperse in mare. Sua moglie Kathy, che è morta il 26 giugno del 2006, non si è più risposata. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto, anche magari in maniera un po' grottesca, maldestra, disperatamente sciatta, come questo Ed Wood di cui abbiamo parlato oggi. Se volete darci qualche parere o indicarci qualche storia, fatelo, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure visitate la pagina, pagine Facebook, pagine Twitter, insomma se volete mi trovate. Ciao, a domani. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I like someone who's near to me. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.